in primo piano. Allora, buongiorno. Com'era prevedibile, l'apertura di tutti i giornali italiani è dedicata stamattina alle trattative tra la Fiat e l'Opel per la costituzione di quello che potrebbe essere uno dei maggiori gruppi automobilistici del mondo. I titoli sono quasi tutti uguali, ve ne ricordo qualcuno: Berlino, cauta apertura alla Fiat, piano Opel interessante, ma governo e sindacati chiedono garanzie. Questo è il titolo del Corriere della Sera. Berlino apre su Fiat Opel, il titolo vola in borsa più 8%, è il titolo di Repubblica. Fiat Opel, la Germania apre, questo è il Sole 24 Ore. Qualche dettaglio, diciamo, nelle pagine interne, sempre riferite alle trattative Fiat Opel. Dalla Stampa il titolo: il piano di Marchionne, 1 miliardo di risparmi. Il Messaggero invece punta su un aspetto meno trattato dagli altri giornali, e cioè le trattative con le banche per trovare i soldi necessari alla costituzione di questo megagruppo. Le cifre che dà il quotidiano romano vanno da 10 a 15 miliardi di euro, e quindi appunto tutte le banche sono al lavoro. Il Giornale invece dice: la prossima tappa di Marchionne sarà adesso quella di puntare sulla Cina, e intanto l'amministratore delegato della Fiat vola di nuovo negli Stati Uniti per cercare di chiudere il cerchio con la controllante della Opel, cioè la General Motors. Altri titoli in primissimo piano sulle prime pagine dei quotidiani: le vicende coniugali della coppia Berlusconi, il divorzio del premier diventa un caso politico, Franceschini accusa: è patetico accusarci per un nostro presunto complotto, dice il Corriere. Titolo un po' più forte, quello di Libero: Veronica come Di Pietro. Il quotidiano di Vittorio Feltri si sofferma sui possibili rischi che la separazione, il divorzio giudiziario della coppia Veronica Lario, Silvio Berlusconi possa avere per il premier sul fronte del consenso elettorale. Altro argomento che ritroviamo sulle prime pagine di quasi tutti i giornali: il decreto sicurezza. Presi di spia, Fini frena Maroni, è incostituzionale la norma sugli studenti figli di clandestini. Questo è il titolo di Repubblica. Fini contro Maroni, no ai presi di spia, dice il Corriere. Ovviamente in primo piano anche l'economia. Ieri sono uscite le previsioni di primavera di Bruxelles. L'apertura del Sole 24 Ore è: PIL europeo meno 4%, ma la caduta si ferma, scrive il quotidiano finanziario, riprendendo le parole del commissario Almunia, che appunto ha aperto uno sprazzo di speranza sull'andamento della crisi economica. Per quanto riguarda la politica, in primo piano il risultato delle elezioni amministrative nel comune di Trento: rivince il modello dell'AI, scrive il Corriere, l'alleanza tra PD e centristi funziona, e riconferma il sindaco uscente. Tra le cose un pochino diverse che ho trovato stamattina sui giornali, vi segnalo Il Giornale, che apre su un'inchiesta dal titolo «Gli eurofannulloni ci provano ancora, 5 anni a scaldare una sedia senza nemmeno fare un intervento né un'interrogazione». Scrive il quotidiano milanese a proposito delle imminenti elezioni per il Parlamento europeo 6-7 giugno prossimo, e appunto sul lavoro, stilando una pagella degli attuali europarlamentari uscenti. Infine una curiosità che riguarda Milano, è un titolo che troviamo sulla prima pagina del Corriere della Sera: ci vorrà una tessera, un badge per entrare nelle case popolari. L'iniziativa è stata presa contro l'eccesso di abusivi appunto nelle case popolari. Bene, diamo adesso uno sguardo ad alcuni editoriali, vi leggo qualche breve cenno. Pierluigi Battista sul Corriere, il limite che non c'è, è il titolo. Un più forte senso del limite, dice Battista riferendosi a Berlusconi, arrecherebbe un vantaggio alla sua parte politica, oltre che al comune senso del decoro. Il limite che separa gli affari pubblici dalle vicende private prima di tutto. Le sue fragorose traversie coniugali sono un fatto privato. Dica ai suoi seguaci che non si azzardino a farne aggressivamente tema pubblico, anche se l'opposizione volesse cavalcare il danno d'immagine che il conflitto con la signora Veronica Nario potrebbe procurargli. Un limite agli applausi della democrazia acclamatoria che ha accompagnato il compimento di un fatto storico come la nascita del PDL. Un limite all'insofferenza nei confronti del dissenso interno, a cominciare da quello impersonato da Gianfranco Fini. Un limite all'apoteosi mondana che intona la marcia trionfale della sua politica. Questo scrive Pierluigi Battista sul Corriere della Sera. L'editoriale di Repubblica invece si riferisce alle vicende Fiat Opel, è Luciano Gallino che lo firma, Ombre sull'indotto è il titolo. L'economista si sofferma appunto su quello che chiama la grande assenza nei commenti finora diffusi in merito alla vicenda Fiat Opel, la componentistica. Oggi circa i due terzi di un'auto, in valore, telai, motori e trasmissioni compresi, sono fabbricati al di fuori degli stabilimenti dove si mette poi il marchio sul cofano, con la tendenza a salire verso il 75%. Quindi per ogni addetto alla lavorazione finale, altri due o tre sono occupati in fondamentali lavorazioni a monte. E qui le cose sul fronte Fiat Opel sembrano davvero complicarsi. Due dei maggiori produttori mondiali di componentistica tedeschi, Bosch e Continental, decine di miliardi di fatturato a testa, un terzo è austro-canadese, Magna, 75.000 dipendenti nel mondo, che dopo aver enormemente ampliato i suoi impianti a Graz non vedrebbe male un proprio ingresso in Opel. Ciò significa che il vero problema della Fiat non saranno soltanto le trattative con GM, ma la gigantesca riorganizzazione di tutta la filiera produttiva in Europa e nel mondo alle prese con questi giganti. Bene, andiamo avanti. Vi segnalo un editoriale del rettore della Bocconi Guido Tabellini sul Sole 24 Ore. Il mondo globale è appena cominciato. Non c'è dubbio, scrive Tabellini, che le principali incognite aperte dalla crisi riguardino soprattutto il futuro della globalizzazione. Da un lato il sostegno statale alle economie dei paesi avanzati si accompagna a forme più o meno esplicite di protezionismo. Dall'altro la crescita generalizzata dell'avversione al rischio induce il rimpatrio dei capitali investiti all'estero. Inoltre, uno dei principali mercati di sbocco, quello alimentato dalla spesa dei consumatori americani, era cresciuto troppo e dovrà ridimensionarsi. Tuttavia, come emerso anche dalla recente riunione del G20, la consapevolezza sui danni del protezionismo è diffusa. Le organizzazioni internazionali, dal Fondo Monetario Internazionale alla Banca Mondiale, sono state rafforzate e l'invito alla WTO a vigilare per evitare recrudescenze protezionistiche non è solo retorica. Questo scrive Tabellini sull'editoriale del Sole 24 Ore. Un ultimo accenno agli editoriali ve lo farei a proposito di quello che scrive il Foglio sulla vicenda Fiat, con un titolo indicativo: o è Trifiat o sono dolori. Il successo dell'operazione Opel è indispensabile per il piano di Marchionne. Il brano che vi volevo leggere è questo qui. Il progetto oggi è assimilabile ad un castello di carta. Basta togliere una di queste carte e viene giù, o quantomeno traballa. Senza Opel, Fiat Chrysler pare un matrimonio fragile. Bisognerebbe vendere le 500 nel deserto del New Mexico o nelle mega strade della California, rubando le parole a Luca Cordero di Montezemolo, roba da far tremare i polsi. Questo scrive Giuliano Ferrara nel suo editoriale sul Foglio di questa mattina. Bene, per concludere questa prima parte della rassegna, vi volevo segnalare soltanto alcuni titoli nelle pagine della politica. Franceschini dice no a Bossi, la riforma, prima bisogna fare il referendum. Questo è un titolo del Corriere della Sera. Un titolo di Repubblica che farà discutere. Sono alcune affermazioni fatte ieri da Marcello Dell'Utri: Mussolini fu troppo buono, i ragazzi di Salò erano partigiani di destra, la RAI è di sinistra, dovremmo occuparla. Questo scrive Repubblica. Ultimo titolo, sempre riferito alla RAI, questo viene dal Corriere: RAI altolà del PD a Masi, se si fanno le nomine adesso è un blitz politico, e quindi si ritorna a parlare dei problemi delle nomine della RAI. Bene, a questo punto finisce la prima parte della rassegna stampa, diamo la linea alle notizie sul traffico. In primo piano. Bene, riprendiamo la rassegna stampa con un'ampia pagina dedicata ai temi economici ripresi dai giornali di oggi. In primo piano ovviamente le previsioni economiche della Commissione europea, PIL italiano giù del 4,4% e allarme occupazione, titola il Corriere della Sera. Sorpresa, la pressione fiscale è di nuovo ai massimi, siamo tornati ai tempi dell'eurotassa, è invece il titolo di Repubblica. Altro tema che campeggia oggi sulle pagine economiche di tutti i quotidiani, la sfida di Obama nei confronti dei paradisi fiscali a caccia di 210 miliardi di dollari di tasse evase, e il presidente degli Stati Uniti vi ha dichiarato appunto guerra, è il titolo che ritroviamo su quasi tutte le aperture di economia dei quotidiani italiani. Vi segnalo poi un'intervista di Jacques Delors, l'ex presidente della Commissione europea, al Corriere della Sera. Uscire dalla crisi, dice, un po' di inflazione aiuterebbe. Bene, tra le varie notizie che ritroviamo sui giornali, vi segnalo San Marino, decapitata la cassa di risparmio per un'inchiesta giudiziaria, questo è il titolo del Corriere della Sera. Ci sono poi varie notizie che riguardano l'antitrust. La prima, ve la segnalo dal Corriere, è faro dell'antitrust sul patto raggiunto tra Crédit Agricole per la partecipazione al capitale di Banca Intesa. Invece Sole e Repubblica si soffermano su un altro tema affrontato ieri dall'autorità che vigila sulla concorrenza e sul mercato. Il Sole 24 Ore dice: l'antitrust critica la Consob, Repubblica no al decreto blocca scalate. Stiamo parlando delle critiche appunto che l'organo presieduto da Catricalà ha fatto nei confronti delle nuove norme che blindano in realtà il controllo delle società quotate in borsa, rendendo più difficili le scalate. Alcune notizie di aziende, vi segnalo: Barilla cresce, l'addio di Singer, l'amministratore delegato americano, arriva un amministratore delegato unico per tutto il gruppo, questo è il titolo del Corriere della Sera. Le vicende del processo Parmalat, un titolo da Repubblica. Parmalat, delirio di onnipotenza di Tanzi, questa è l'accusa dei magistrati. Vi segnalo poi un'intervista di Lorenzo Pelliccioli: dopo l'ottomatica, dice al Sole 24 Ore, penso alle generali, anche se precisa, dal leone possiamo uscire, non è una partecipazione strategica. Un'altra notizia riguarda invece una possibile mega commessa in arrivo per la Fincantieri. La Boeing chiama la Fincantieri per una gara da 4 miliardi di dollari per gli overcraft destinati al Pentagono. Dopo le vicissitudini dell'elicottero della Casa Bianca che riguardavano Finmeccanica, adesso si apre uno spiraglio per la Fincantieri. Questo è il titolo della stampa. Passiamo ad una rapida carrellata sui titoli che riguardano gli esteri. Tutti si soffermano sulla visita del controverso nuovo ministro degli esteri israeliano, che ha cominciato appunto un suo tour proprio da Roma. Debutto a Roma, dice il Corriere, critiche a Olmert e Sharon. Frattini invita all'uso di toni più moderati, questo è il titolo di Repubblica, no ai due stati, Israele e Palestina, dice la stampa. C'è poi un'intervista a Re Abdallah di Giordania, al Corriere della Sera, in cui il monarca chiede stato palestinese entro il 2009. A cavallo di esteri e cronaca, la strage al matrimonio in Turchia che ha fatto 40 morti tra i curdi, questo è il titolo di Repubblica. E poi una curiosità che vi segnalo dalla stampa, il Dazio stronca l'acqua italiana, una sovrattassa del 100% sull'importazione di acque minerali negli Stati Uniti contro il rifiuto da parte europea ad aprire le frontiere appunto del vecchio continente alla carne americana con presenza di ormoni, e si prepara anche lì una battaglia di dazi sulle importazioni tra le due sponde dell'Atlantico. Passiamo poi a qualche notizia di cronaca. Vi segnalo di nuovo un caso di accoltellamento a scuola a Roma. Il caso dei ragazzi che girano con i coltelli sta diventando davvero preoccupante nella capitale. Questo era un titolo del Corriere della Sera. Sul fronte della febbre suina, mi sembra che l'allarme stia decrescendo, stando alla lettura dei giornali. Comunque si segnalano due nuovi contagiati a Roma, erano rientrati sullo stesso volo. Questo è un titolo del Corriere. Ancora il terremoto, c'è rabbia sui soldi per la ricostruzione, dice Repubblica. Gli abruzzesi accusano il governo di mentire perché i fondi saranno erogati soltanto entro il 2033, quindi un lasso di tempo effettivamente molto lungo. Un'ultima notizia di cronaca presa dal giornale in prima pagina, miracolo a Lourdes, cammina dopo 20 anni, e per chi crede ai miracoli appunto questa è sicuramente una notizia. Allora, per chiudere la rassegna vi faccio una rapidissima carrellata dei titoli dei giornali che non ho citato finora. Parliamo di Gazzetta dello Sport, Juve si cambia, bianconeri in crisi, 4 punti in 5 partite, a rischio pure il terzo posto. Liberazione, missione di pace, ovviamente il titolo è ironico e si riferisce all'uccisione della bambina da parte dei nostri militari in Afghanistan. Scuola, diritto di tutti, è l'apertura del Secolo d'Italia. Il Manifesto, scuola di polizia, il riferimento è di nuovo al decreto sulla sicurezza e all'ipotesi dei presidi spia che ha messo Fini contro Maroni. L'Unità apre il giornale ovviamente sui risultati del Trentino che hanno visto vittorioso il centro-sinistra. Fiat Opel Berlino apre a Marchionne è invece il titolo dell'Avanti. Bene, la rassegna stampa di questa mattina finisce qui. Noi ci sentiamo domani. Buona giornata a tutti.